Bentornato all'Oliva, qui presente in spirito di voce o di grumi magnetici su nastro, ma comunque bentornato per parleremo di istituzioni totali, frequenze cardiache, dell'uso del verbo vagheggiare, e soprattutto parlare anche in vice altrui.